concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. E calendari a chiederci se stiamo perdendo abbastanza, abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi mille lire, che vecchiaia che passerei. Strade troppo strette e diritte per chi vuol cambiare rotta, oppure sdraiarsi un po'. E andare va bene, però a volte serve un motivo. Certi giorni ci chiediamo, è tutto qui? La risposta è sempre sì. Non è tempo per noi e non ci adeguiamo mai. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai. Belli o brutti, abbiamo pace che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Se un bel giorno passi di qua, lasciati amare, poi scordati, svelta di me. Che quel giorno è già buono per amare qualche qualche altro. Dicono che noi ci stiamo buttando via, beh, ma siamo bravi a raccoglierci. Non è tempo per noi che non ci arriviamo mai. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai. Belli o brutti, abbiamo facce che però non. Se non lo sarà mai, non è tempo per noi che non abbiamo come voi. Non ridiamo, non piangiamo, non trompiamo come voi. Forse ingenio testardi, poco furbi casomai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai.